6. Ascolta e controlla. 1. Avete sete? Avete bisogno di bere qualcosa? 2. Il bambino ha sonno. Ha bisogno di dormire. 3. Hai tempo? Hai voglia di fare una passeggiata? 4. Ho la febbre. Non ho voglia di fare niente.